interessava uno, era solo una domanda che mi hanno fatto, se mi interessava un 440. Infatti devo anche rispondere, che mi sono ricordato adesso che hai citato tu del 440, perché mi sono anche dimenticato di rispondere, perché stava caricando il telefonino e dopo mi è uscito di testa, infatti dopo le rispondo all'amico, un amico in gamba. Ok, avanti già. E poi sono apparecchi buchi, sono stati già usurati i componenti buchi. Io preferisco prendere un apparecchio nuovo che prendermi uno di quelli, perché sono già stati usurati i componenti e prima o poi parte qualcosa. Ma già, noi con 350 euro, dico qua giù l'apparecchio nuovo, l'apparecchio caffè nuovo non ce l'ha 350 euro, quindi stiamo parlando di apparecchiature buone, nuove. Io la mia volta, una persona che tra l'altro me l'ha cercata lui, io non stavo vendendo niente, mi ha detto sto cercando, mi ha telefonato, ha detto sto cercando un 440, ho contato fino a 10, gli ho detto cosa ti serve, un 440, comprato da te o possibilmente il tuo, mi ha detto. Va bene, allora ho contato fino a 10, ho detto allora facciamo ancora, siccome mi ha detto quindi ti do il mio, bene va, i sciogo e rivendi, ma proprio così mi ha detto il prodotto rese, sciogo e rivendi, è salito e ce l'ha preso, capito? E il mio c'era la scheda fonemi, c'era tutti i filtri e la radio era a posto, revisionata 2 anni fa dalla solita persona che conosciamo, non a me, ma è stata revisionata a Roberto Quadrato perché io l'ho presa da lui, perciò, capito? E ce l'ha portata via immediatamente. E tu considera che forse io sono l'unico, non perché vendo, ma quando vendo, vendo bene. Gli ho dato la scatola del 440, che era 10 anni in mansarda, ed è difficile che ti diamo la scatola del 440 perché vale soldi anche quella. Con i suoi imballi originali, il cavo originale a 4, quello piatto a 4, ok, il microfono originale, con tutti i manuali originali. Ma di tua non ce n'è più nessuno, sei l'unico affidabile quando vedi questa radio, capito? E io mi sono preso un 140, perché sta tornando una nuova al 140 perché non dà problemi, proprio per fare la 27, e con 430 faccio la KF. Maracchini per fare due chiacchiere ne ho quanto ne voglio, esco bene lo stesso, quindi fatto fuori, non ne prenderò mai più di 440, mai più, perché è una radio che se tu non la usi, come la devi usare? Se io ammetto il caso che la devo tenere spenta un mese, 2 mesi perché ho un impegno di lavoro e non posso accenderla, tu vai ad accenderla e non funziona più. Mentre il 140 tu, io l'ho lasciato quasi 6 mesi dentro l'armadio, l'ho tolto dall'armadio, l'ho acceso, funzionante al 100%. Capito già dove la differenza? Se ti sei ricatta come radio, ma che è una bomba, non uscita, va molto bene, però è anche il problema lì, purtroppo è una radio che bisogna usare. Il 140 che io va forse anche di più del 440 come modulazione e come tutto, c'è la sua colonnina esterna perché ne ho due, una l'SP430 e l'altra l'SP430, c'ho l'alimentatore suo di linea, il PS430 e il PS50 che l'ho fatto riparare perché c'era una riparazione da fare, ma non sono fatto riparare, capito? Quindi vanno bene, quelle radio vanno bene, però vogliono sapute usare e chiaramente devi saperle anche portare, perché è così, lo sapete come l'ho preso io, faccio così, per me è così, però chi ce l'ha la sta cercando parecchio, la stanno cercando parecchio, 140, 680, 430 un po' meno, perché chi ce l'ha se lo tiene, e io ce l'ho un sacco di anni e non ho fatto una riparazione solo, il frequenzimetro e basta, ma altri danni mai, e me la tengo, perché me la tengo, altrimenti non avrei HF. Capito? Perché è superiore al 140, sia come ricetrasmettitore come tutto. Vai Giulio! Certo che purtroppo è così, devi anche considerare che sono radio abbastanza vecchie, per cui magari un tipo ha bisogno di manutenzione più di un altro, il 440 evidentemente ha più bisogno di manutenzione del 140 e anche del 680, evidentemente così. E vabbè, io qualche anno ce l'ho, ce l'ho provo 5 anni, non lo so, 5 così, 6 anni, boh, non lo so, io preciso. questo modo così. E l'ho dovuto riparare, l'ho dovuto far riparare perché mi erano venuti fuori, ho fatto dei puntini. E adesso c'è quest'altro problema, cioè adesso funziona, funziona bene, non c'è problema, però non mi dà il watt che deve dare, perlomeno una M. Poi in banda laterale sicuramente in FM già me li dà i watt suoi, e in AM che non me li dà, evidentemente qualche cosa c'è che non funziona. Vuol dire lo faremo riparare quando è necessario, se non lo mettiamo da parte non se ne parla più. E ce ne compriamo un altro, un bel baracchino normale per la 27, per cui sono sempre orientato sul 3009, io, la verità, oppure sul 6009, mi piacciono tutti e due, sia l'uno che l'altro. Vabbè, dai, avanti già. Ma ti piace il digitale? A me piace più analogico, a te ti piace il digitale, 3009. No, come quello che hai tu, Gianni, uguale ai tutti, così analogico. Quello è bellissimo, quello va bene, esce bene, tutto qua. Ha una bella modulazione come gara, sì, la stessa cosa. Sì, non farei brutto affare a prenderlo, non costa nemmeno tanto. Ed è un bel apparecchio perché c'ha anche il circuito come lo facevano prima, non come quelli di adesso che c'è lo microcircuito. Infatti, no, ma mi piace anche come tipo, cioè il T3009, ce ne sono diversi. Mi piace quel tipo che hai tu così, però ci sono anche, ce ne sono 14 o 15 che sono tutti 3009, solo che ogni ditta gli ha dato il suo nome, l'ha fatto fare il logo sempre adeguato alle loro esigenze, alle loro volontà. Però in realtà di 3009 ce ne sono esattamente 14. Io ho una lista, ci sono 14 baracchini che sono tutti come 3009, uguali. Però naturalmente magari c'è quello che si chiama Ritone, c'è quello che si chiama 5555, c'è quello che si chiama Kenwood, mi sembra, non mi ricordo la sigla, poi c'è il numero, anche quello c'è. Insomma ce ne sono diversi. C'è un tipo che si chiama Mercurio, se ricordo bene, e così via. Insomma, ce ne sono 14, ho una lista intera. L'ho messo al computer e so che è così. Avanti qua. Sì, ho avuto anche io un paio, Superstar il 360, 3009, 3006, ce ne sono tanti, sì, è un bel baracchino quello, funziona bene, ha un ottimo ricettatore, va bene, e io ho l'Elbex, il 4082 che è famoso, 120 canali, va bene con le bande laterali, ottimo. Anche quello, cioè l'MV più 5 è sempre abbinato e ti dico che va bene. Ah, per fare due chiacchiere, Tom, a livello così, 10 watt, ma cosa? Ti sentono tutti, ci sentiamo tutti, anche questa, nonostante sia una radio vecchia, ha una bellissima ricezione, e quindi cosa? Già me la frutti. Va bene così, già, ultima per la truppa. KK. Cosa stavo dicendo? Luca non c'è. Luca non riprende. Ad esempio lì adesso ho una lista. Gianni, c'è il Superstar 2009, poi c'è il Mas TX 5000, KPT X 5000, Kenwood TH 9000, Hannover BR 9000, TRT SS 2009, Comtec TX 1000, per Europa, poi c'è Avanti Grande, poi c'è Acquario TX 80, Anitoria T5555 europeo, Alfa 10 Max 1000, Perugia, insomma ce ne sono 14 in tutto già. Infatti lungo. Ce n'era uno anche che mi piaceva, che era digitale, che l'ho fatto ultimamente, e mi hanno detto che era molto un volante, non mi ricordo che marca era, ma è una marca conosciuta, fa anche apparecchi radioamatoriali, ma non mi ricordo che marca sia, però è molto bello. Ecco, tutte quelle che ho detto sono tutte il superstar, solo che ogni ditta se lo fa, se lo richiede a modo suo il logo, no? E magari qualche modifica anche nel frontalino, eccetera. Però il baracchino è quello. Allora ti qua, riprendi già, Claudio si è allontanato di nuovo perché giustamente devi attendere, dai, avanti già. C'è anche Lucrezia, Lucrezia ci sì. L'ho chiamato poco fa e non ha risposto. Non sai che Luca lavora anche lui e dunque si deve assentare di tanto in tanto. Ehi, ma vabbè, ma niente. Ma qua allunga un po' carino, tanto è basso, dunque allunga un pochino. Franco Carippone è sparito, Gaffo. Franco Luce. Allora, siamo rimasti tutti qua. Siamo quelli che salviamo la loro. Sette, già le 7 sono quasi. Un minuto manca. Un minuto alle 7. Dopo, la serata è passata in fretta. Vabbè, infatti, quando si fanno quattro chiacchiere tra amici così tranquilli. Già passa la serata. No, io mi sono coricato dopo pranzo, riposato, mi ha salvato il cappello con la rifronte, per una fesseria poi che mi ha svegliato, ti ho detto scusa, vedi, non so, con la mamma mi è scintata, stavo dormendo come un sasso. Ok. Vabbè, anche già c'è un buono riposino, intanto cosa fai? Uno che ha tempo, che non lavora, cosa fai? Io lo so, guarda, sto passando delle giornate, guarda, non lo so nemmeno io come, un po' al computer, un po' alla televisione, un po' al baracchino, un po' invento qualche cosa qui a casa, non so proprio come passare il tempo già, sapete quanto mi è mancata la falegnameria, tu non hai idea di quanto mi è mancata, ancora oggi ho sempre quella idea nella mente, la mamma mia, ma comunque, ormai è momento. Ma avete chiamato? Sì, ti abbiamo chiamato, ma gli abbiamo capito che ci è allontanato per andare da Anna. E Giulio, già ce l'hai il tuo pizzettino, se ti vuoi fare qualcosa, costruisci i microfoni di nuovo. Guarda, io devo fare un lavoro qua per la mattina, voglio fare. C'è il discorso del coronavirus, ragazzi, ho paura di andare a comprare materiale, dai, con la patologia che ho avuto io già, è facilissimo prendersi contagio, perché con tutte le cure che faccio, che sto facendo di tanto in tanto, magari mi ci sono abbassate l'immunità, si è abbassata un pochino, protettiva, non ce l'ho più come prima e allora ho paura, la verità, ho paura veramente, guarda. Infatti tu pensa che sono un anno già che non ho più visto a Corredo, tu lo sai, con Corredo ci incontravamo tutte le mattine, andavamo al bar a fare colazione tranquillamente, facevamo tutta la mattina insieme, non solo con Corredo, anche con altre persone, ma oggi lo puoi fare, non lo puoi più fare, devi uscire con la mascherina. Però che un amico non lo puoi salutare, non gli puoi stringere la mano, non puoi andare al bar, non puoi avvicinare nessuno, e allora cosa facciamo? Passiamo un tempo così, vieni là, vediamo che finisca presto questa storia. Vai Claudio. Io? Vai. Ho detto, io l'altro giorno sono sceso dove lavoravo, a salutare i colleghi per non fare maleducato, sono andato a fare gli auguri di Natale, visto che c'ero mi ho portato un bel po' di spiccioli di albero, me li sono cambiati. Salvadanaio mi ha reso 250 euro quest'anno, sono andato bene, e niente, giusti qui sembrava che ne avessi contata, e niente, sono andato a trovare i miei colleghi, però le colleghe vedi vanno con te e poi ti dovevi bloccare, io ho detto manco a dargli un bacio, non puoi fare niente. Infatti non puoi fare niente, è rischioso già, io esco solo per andare a prendere la pensione e per fare la terapia che devo fare saltuariamente quando mi viene assegnata, perciò non posso rischiare, ecco, non posso rischiare, devo essere sincero, ho paura. Avanti Claudio, sei rientrato. Ma c'è la verità. Ehi, ma infatti c'è la paura proprio, hai visto anche stamattina. mattina, un saluto, ci avanti via subito, cosa che prima magari potevamo andare a prendere un caffè, due chiacchiere, eccetera, e non fa. Ma anche io, guarda, io un'oretta la mattina ho necessità di uscire, perché io sono abituato, io mi alzo molto presto, vado qua vicino a casa, che non c'è mai nessuno, così presto, do un'occhiatina al giornale con la mascherina, mi prendo un caffè e mi rientro a casa, capite? Rientro subito a casa, alle 9 porto a Filippo. Aspetta che rispondo Andrea, riprendi già. Mandami il numero, dici se mi dai il numero di Andrea anche. L'altra volta lo dovevi dare, poi ti sei dimenticato. Che non voglio salutare, è solo un giorno che senza vederlo sentito. Avanti già. Perché Andrea c'è? Andrea, mi piacerebbe di sentirlo. Però ho provato il numero che ho io, no, evidentemente lui ha cambiato il numero, non lo so. Non lo so. Troia. Un po' di tempo che non lo sento in radio. Non sta più entrando in baracchino, ma qualche volta è entrato. All'ultima vita, l'ultima volta che l'ho visto saranno passati almeno 3 anni, se non anche di più. Insomma, io avrei voluto fare anche una telefonata, mandargli un saluto, eccetera, scambiare due chiacchiere, così sentire, almeno per sentire come sta, eccetera, eccetera. E invece il numero non è più quello, evidentemente non ha cambiato il numero già, non lo so cosa avrà fatto. Non lo so, perché io ce l'ho per quel numero, ma da quando ho cambiato il telefono ho perso tutti i numeri, piano piano me li sto di nuovo tutti registrato, capito? E ho perso anche il suo, perché prima già si sentivamo spesso, io l'ho visto 2 o 3 giorni fa, non è da molto che lo vedo, addirittura mi ha suonato lui con la macchina e mi ha detto, beh Gianni, tutto bene, ho detto sì, grazie a Dio, sì, ciao, ci sentiamo che sono a fare un lavoro qua vicino, e se n'è andato. Ok, mi piacerebbe sentirlo e anche vederlo, però purtroppo è così, sono un numero, cosa vuoi che ti dica? Non so cosa dirti, va bene, là. Adesso vediamo se non lo fa bene, magari Claudio, così poi io gli faccio una telefonata intanto, io faccio così, nonostante che non sto uscendo, però ogni tanto una telefonata agli amici quando sento da tempo, perché chiaramente non è che abbiamo toccato i ponti, no, assolutamente no, ci mancherebbe altro, però purtroppo il coronavirus ci costringe a sentirci di tanto in tanto e non molto spesso, per cui sto facendo così, cosa devo fare? Anche con Antonello mi sento ogni 3, 4, 5 giorni, ci sentiamo, eccetera, eccetera. Lui le racconta le cose sue, io le racconto le mie, la famiglia sua così, la famiglia mia, eccetera, eccetera. Per cui, ma più di tanto non si può fare già. Ma Antonello si è preso dalle scuole? Antonello no, non c'è più, ci manca già un anno dalle scuole, assolutamente, no. Ormai è in pensione anche lui. Va bene, allora, va bene. Io mi ricordo proprio Antonello con lo zio di Andrea Celestino. A noi ci pitturavano la casa, ci facevano lavori, insomma. Celestino era molto bravo a pitturare, a fare lavori di pittura, era molto bravo. Non so se tu l'hai conosciuta Celestino, ma era lo zio di Andrea, viveva in casa di Andrea. Sì, l'ho conosciuto, io a Vuglia. Sì. Non ho avuto mai niente a che fare con lui, però io l'ho conosciuto tranquillamente. Sì, ma così anche con gli fratelli, lo stesso mi dà sempre per telefono, magari in videochiamata, eccetera, eccetera. Ci sentiamo quasi tutti i giorni, però ognuno rimane a casa sua, perché tutti quanti abbiamo lo stesso problema, cioè la paura di uscire. E purtroppo è così già, non posso fare diversamente. Pazienza, e guarda come va, la vita purtroppo ci ha costretto, questa situazione ci ha costretto a rimanere a casa, molto, molto ritirati diciamo, dai, Ehi, io c'è uno del mio palazzo che c'ha il vizio di andare senza mascherina nell'ascensore, l'ho detto già due o tre volte. Oggi gli ho detto basta adesso, e ce l'ho in macchina, a me non me ne frega niente. Tu te la devi mettere sino a casa tua, perché qua la gente entra un sacco di gente in ascensore. Se tu sei di quelli che contagiano, che c'è qualche cosa, contagia tutti e poi tutto il palazzo viene ricoverato, capito, per colpa tua. Ma io non c'ho niente, vabbè, non c'è niente, ma te la devi mettere, perché poi va a finire che mi costringe a chiamarti vigili. Cazzo, io non tocco manco i pulsanti dell'ascensore con le dita, non tocco con la chiave, Giulio, perché ho paura. Perché l'ho preso già, non è, guarda che non è spostare così un pochino di traffico, bisogna cercare di stare molto ma molto con gli occhi aperti, soprattutto attenti a queste cose, ci mancherebbe altro. Perché da poco, guarda, noi di tanto in tanto abbiamo degli indumenti, delle cose, dei giubbotti, dei pantaloni, dei maglioni, insomma, ad una persona che ne ha necessità, tutta roba nuova, amici, tutta roba nuova, nuovissima anzi, nuovissima, non nuova, nuovissima, soprattutto roba di mia figlia, eccetera. E qualche giorno una persona grande, l'ho messa fuori dalla porta, ci siamo sentiti dal telefono, guarda che abbiamo questo e quest'altro, se ti interessa sì, vengo a prendere, sì, guarda però scusami ma ti metto la busta fuori dalla porta, ti metto quando stai arrivando, mi avvisi che la si viene a prendere. E così è stato, perché questa persona abita a Porto Torre, e nel palazzo dove abita questa persona è una donna, no? E sono tutti contagiati, hanno fuori di lei e della sua famiglia, tutti gli altri del villaggio d'Artigo, tutti contagiati in questo palazzo. Però nessuno si preoccupa, boh, non lo so io. Boh. E infatti a Porto Torre sta girando male. Lo so, purtroppo c'è gente che si dà. Questo qua lo scemo del palazzo. Ma non rispetta regole, niente, non ha fatto niente di niente, non è più niente, quello che vuoi continua a fare quello che vuole e basta, capito? Se ne è più non c'ha fa poca, quando fa due giri, l'altro giorno mi ha mandato quasi in quel paese, però salendo con l'ascensore ha chiuso la bocca, ha fatto un gesto come dire va a ha alzato la mano, no? Oggi l'ho trovato, gli ho detto, cos'è che hai detto l'altro giorno? No, perché tu mi dici, ma scusa, ma secondo te tu fai una cosa giusta, entrare in ascensore dove entra tanta gente, tu pensa che l'altro giorno mi hanno portato la pizza, se sono andato lontano, avanti, mi hanno portato le pizze a casa e il tipo mi ha telefonato prima, mi ha detto, ascolti signore, mi fa una cortesia, sì mi dica, non è che si può mettere la mascherina quando arrivo, sì non c'è problema, la metto sempre quando mi portano le pizze, non c'è problema. Già lo credo, no, ma per dirti no, siccome noi questi indumenti li buttavamo dentro quell'affare giallo, perché no, che raccoglie gli indumenti, questa roba nuova, sai come, mia figlia soprattutto è streccona, sta sempre comprando e a un certo momento non ho più posto nemmeno nell'armadio, che è grandissimo tra l'altro, e allora deve incominciare a eliminare quello che aveva comprato prima. Questa donna che riservavo così, no, perché una volta ci aveva sentito, siccome era l'ordine di mia moglie questa donna, no? E parlando, ha detto, noi li mettiamo sempre, no, dice, non rimettere lì, no, dice, mettimeli da parte, dai a me, dai, e me li porto io, che poi ho tanti nipoti, ho tante persone a cuidarlo, ma così vuoi fare, così va bene, e di che già 3 o 4 volte gliel'abbiamo dati a questa donna. Però adesso prima veniva a casa, faceva lezione, faceva l'allieva di mia moglie, eccetera, ma adesso no, da quando c'è stato il coronavirus le lezioni sono state interrotte, per cui però siamo sempre in contatto con tutti, capito? Ho capito. Vabbè, anch'io sto dicendo solo a fare spesa. L'altro giorno mio figlio mi ha convinto, andiamo al sushi, papà, quello è fissato con sushi, lui. E dai, importa, ma alla fine mi ha fatto aperto, dai andiamo, però ci sediamo pure. e fuori stava piovendo, lo faceva sedersi, quindi ci hanno dovuto entrare dentro, pieno, pieno, zeppo di gente, non c'era manco la distanza tra tavolino e l'altro, te lo devo portare mai più, non ci vengo più questi posti. Ecco. Avanti, Massimiliano. Sì, dai, buonasera a tutti, saluto anche chi è in ascolto, era solo per dirvi che vi saluta Falchetto. Ah, grazie. Che fino a fatti non l'ho più visto. Salutalo anche da parte mia, dai. Beh, va bene, no, se lo rivedo qualche altra volta, l'ho visto così di sfuggita, va, siamo fermati proprio 5 minuti. Ok, dai, rimango in ascolto, non riprendo più. Avanti Giulio e vi saluto, ciao. Giulio. Ciao Massimiliano, dai, buona serata. Se fai ascolto, buon ascolto, dai. Ma anch'io so che non ne ha più. Bene, bene, bene, e quindi già. Giulio, ma vabbè, sono al telefono con Andrea, ha detto di dartelo il numero, dopo te lo passo su WhatsApp, ok? Ok, grazie qua, grazie anche Andrea, e dopo le faccio una telefonata, perché il numero io ce l'ho uno, però non mi risponde quel numero, evidentemente lui l'ha cambiato, perché ho piacere di sentirlo così, cambiare quattro chiacchiere al telefono con lui, che con Andrea siamo stati sempre molto amici. Ok, grazie qua. Ehi, riprendo subito, dai, che sono al telefono con lui. Ok, intanto saluto da parte mia. Papà, anche da parte mia, dagli un pugno a capo. Ok, già, dai, mi primo. 7:15. Poco fa, verso le 6, ho incontrato di fare merenda, invece poi stavamo parlando al baracchino e sono ripensato, ma insomma non ci scendo giù a farmi un panino, perché se no mi tocca lasciare Gianni solo. E dunque allora sono rinunciato. Non fa niente, vai, prendi già. Sì, potevi andare, cosa non c'erano problemi, dai. Solo che tu ingrassi, se non ti muovi e mangi, ti ingrassi, è meglio che non l'abbia fatto. E infatti è così già, e infatti ho ingrassato almeno 5-7 kg anche. Guarda, cosa volessi dire, ma è chiaro che ingrassi, perché... Eppure mangiare mangio così, sempre allo stesso modo, non è che mi sto abbuffando, no, nella maniera più assoluta. Però non faccio niente, non esco, non faccio niente. Dalla poltrona al divano, alla sedia, alla televisione, dalla televisione al baracchino e così via, oppure al telefono, con amici e così via. E d'altronde se non ti muovi, se non bruci calorie, anche se mangi poco, che mangio sempre normale, non è che mangio una volta, ma quando ero ragazzo già mangiavo poco, ma adesso nemmeno la metà della metà mangio di come mangiavo prima, non c'è più quell'appetito di una volta, già. Ma invece papà mangiava, ragazzi, da 96 anni mangiava, ma aveva un appetito, si mangiava certi piatti di minestrone, tantascita, una cosa allucinante, ma tutto mangiava secondo, frutta, tutto quanto. E Viviana diceva, papà, ma non sei troppo grande per mangiare tutta questa roba di sera, ma la digerisci, se no ti faccio il latte. No, io il latte non ne voglio mangiare normale. ok, il latte io, secondo come mi sta andando in mente, diciamo delle mattine, ad esempio stamattina ho mangiato il latte, ho mangiato. Però di solito mangio lo yogurt, già mi mangio un bicchiere di yogurt, mi mangio, compriamo di quelli a barattoli grandi e quelli da chilo. Tra l'altro costano anche una miseria, 1,79 mi sembra, 1,80, una cosa di qui da MD. Ed è buono, la verità, è intero, è latte intero, fatto da latte intero. E io ho yogurt oppure un cappuccino la mattina, mi faccio, ma niente di più. Alle volte mi metto dei biscotti, alle volte mi metto anche del pane, per cui è così, la colazione la faccio. Ma viene considerato che la facevo al bar prima tutte le mattine, insieme agli amici che incontravo, ma adesso non sto più salendo, per cui la faccio a casa la colazione già. Io qualche volta, quando vado da Italy, quello che c'è di fronte a casa, fa la spesa, dice il bar, conosco anche la barista e cosa, mi siedo 5 minuti per un caffè, se sono con amici lo pago anche agli amici, se no lo prendo anche da solo. Infatti, e io tutte le mattine, guarda, non dico molto, ma 4-5 euro tutte le mattine mi spendevo, e cominciate, il cappuccino, e la brioche, alle volte due, o la frittella, io di solito mangiavo la frittella, quella fatta fritti, quella col buco in mezzo, non quella. Dopo magari fatto la colazione più tardi, un po' più tardi, ancora andavamo da Antonello che non Antonello del Turino, io e lui sì, però da un altro Antonello, che è quello che c'è all'angolo di Pianura, via Pasqua di angolo Pianura, che fa i panini eccetera, no? Andavamo, ci prendevamo un panino lì, insomma tutti i giorni noi, sempre sui 4-5 euro ci spendevo per queste cose, non gli mancava il mezzo. Non c'era problema, ma andava bene perché camminavamo, facevamo delle passeggiate, insomma, si bruciavano anche le calorie. Invece oggi non brucio calorie, non fai niente, ma anche stando a casa è chiaro che è grasso. Ma questo Antonello cosa c'è al bar? Ma ha un coso, una salumeria, però vai lì e ti fai anche il panino, vendi anche pane sardo, queste cose così. Prima era via Castelreta, poi si è trasferito dove c'era la regatoria, come si chiama? La regatoria di Acchenta, lì all'angolo, nell'angolo opposto dove si vanno i bambini all'asilo. Pianura, all'angolo opposto del colore dei bambini. Sì, dove ho capito. Dove? Lì, all'asilo io. C'è l'asilo nido. Sì, ho capito. Mi mancava, io mi ricordavo che c'era la legaturia, cucchiattisteria, tutte queste cose qua, però non mi ricordo questo bar, deve essere stato messo da poco, oppure sono io che non passo molto. Da quando non mi faccio più le passeggiate con te e non ci sono più passato lì. Ci passo in macchina ma mi sfugge, capito? Adesso sono. Prima andavamo prima a Moscador la mattina, fresco, tutte le mattine, mancava di meno. Antonello si prendeva un caffè e si mangiava una pasta o due. E così io invece prendevo sempre il cappuccino, perché il caffè non ne prendo io prendo il cappuccino. Eppure una frittella o una brioche, insomma, così. Poi dopo di quello, dopo magari che so io, Antonella e io andiamo da Antonello. Oh mamma mia, se andiamo lì bisogna farci un panino. È per quello che puoi andare. Andavamo lì e un panino a testa, oppure una focaccina di quelle grandi, di quelle molto grandi, tagliata a metà e metà a lui, che era sempre come quantità, sempre superiore a un panino. Perché ti puoi immaginare, quasi così, mamma mia, dice, ho fatto tanto per i bambini, e tu mi stai facendo mangiare. E vabbè, la frega, tutta salute ho adorato, dicevo io. E non è che se si mangia due paste sia meglio, Infatti te lo dicevo io, ma è un po' che faceva ridere, però, perché lui prende il caffè senza zucchero. La scusa, la prendo quella, forse prendo un grasso ingrassato. Però si mangiava le paste, si mangiava. E che magari erano frittelle con lo zucchero sopra. Allora, è quello, soprattutto, allora. No, lui mangia molto il ventaglio, il ventaglio mangia lui. A me non è che mi piace io preferisco le frittelle, preferisco, oppure le brioche, oppure i cornetti, quelli con il cioccolato dentro, o con la crema, e così facevamo, e tutte le mattine mancavi bene, non c'era niente da fare, era quella, la nostra vita era quella. Già. Io prendo le frittelle con la crema, oppure i cornetti con la crema, oppure le ciabatte. Sono le tre paste mie preferite, le ciabatte un po' di meno perché sbriciolano, mi sporco tutto, invece la frittella mi piace in un modo pazzesco, quella con la crema, mi piace troppo, è quella che mi piace di più. Infatti, con la crema, metti il telefono, scusa un attimo, telefono già. Vai, tranquillo. La Vodafone. Ma io voglio sapere cosa, io tutte le volte che mi telefono a Vodafone io non faccio altro che chiudere la comunicazione. Cosa me ne frega? Perché ti mandano, vogliono sempre che fare una promozione. Adesso mi hanno scritto nel messaggio che ho vinto non so che cosa, infatti non l'ho letto nemmeno tutto, e che per un mese avrei, lo so, di un premio eccetera eccetera, però poi per fare poi l'abbonamento 15 euro al mese, ma per quale motivo devo fare 15 euro al mese quando ne pago 7,90 al mese e ho tutto, ho le telefonate, ho internet, ho i messaggi, ho 50 giga, dimmi tu se io devo avere, devo cambiare, ma queste sono, questo è un passo. Che cosa c'hai? Io ho Vodafone e pago 7,90 euro al mese, pago praticamente, e ho internet del telefonino, ho le telefonate illimitate, quanto voglio fare, i messaggi, più 50 giga, dimmi tu se io sono così scemo che cambio il sistema, non posso cambiare nella maniera più assoluta. E loro mi hanno proposto, questo EPD, che mi danno un mese gratis e poi devo fare 15 euro al mese, ma dice sono macabrino. Ma tu ce l'hai da molto questa promozione, perché io promozioni così non ne ho trovato, gli ho telefonato per cambiarmi, perché io pagavo troppo, stavo pagando troppo, alla fine ho preso quella da 15 euro che per gli ultra 60. Io questa gestione qua che da Vodafone ce l'ho da 3 mesi più o meno, tre mesi e mezzo, non di più, perché prima avevo Poste Mobile pagavo 10 euro al mese, però anziché pagarli ogni mese pagavo 30 euro ogni 3 mesi, avevo quella promozione lì. Però poi alla fine mi hanno fatto arrabbiare perché in certi posti non prendeva, allora ho cambiato e sono andato a Vodafone. E ne ho due io schede Vodafone, una la scheda normale e l'altra è questa a contratto, così dove c'è internet, ho fatto due numeri io già. No, io ho fatto questa perché pagavo 20 euro e non mi bastavano mai i soldi, cioè io a fine mese non arrivavo mai, mi dicevano che non era sufficiente quello che avevo messo. Ma stiamo scherzando, le ho telefonato, le ho detto, lei ha preso, non è che l'ho presa io, me l'hanno proposta loro veramente, e non ho avuto dura. Era quella, il contratto, quello che si pagava di più, che ci aveva più cose, eccetera, eccetera. E quindi lo facevano pagare un po' di soldi, veniva più di 20 euro, capito? E alla fine mi sono preso questo da 15 perché non ho trovato altro, quindi questo da 7 non me l'hanno manco elencato, o non me l'hanno elencato loro oppure è finita, magari era un'offerta. Sì, dopo te lo mando su WhatsApp il numero di Andrea, ok? Un saluto sia a te che a Gianni, a tutte e due. Ciao Flavio, stai andando con un film? No, sono qua, ho detto, ho finito adesso con Andrea, ha detto un saluto a te e un saluto a Giulio, poi a Giulio ti mando su WhatsApp e ti mando il numero di Andrea, ok? D'accordo, grazie, sì, perché mi fa piacere contattarlo ad Andrea che è un grande amico, ci conosciamo una vita, ci conosciamo anche. Ormai siamo invecchiati, io più di lui, però diciamo ci conosciamo tantissimi anni. Bene. Allora, ti riprendi ancora qua. No, sono 7:30 già, allora aspetto un pochino, poi vado a portarlo, ma nel tempo di fare la pipì, poi rientro subito, non c'è problema. Anche perché mi lascia arrivata mia figlia, quindi sono un po' più libero, va. Va bene, e io stavo parlando di più di me, poi sa che c'è questo problema, quindi mi ha chiamato. Va bene, avanti già. Ehi, va bene. Saranno dei ricordi fra poco, come se ne ricorderà più da già passo in fretta. Oh, yeah. Bisogna passare lui, l'hanno manoperato, dolori di tutti i più. Giulio già lo sa che l'ha coperta anche a fratello. Tanto per alzarmi, sai cosa dovevo fare? Dovevo mettere il piede sotto la gamba, alzarmi la gamba come se fosse una gru con l'altro piede, poi scendere piano piano, a volte dovevo fermarmi perché io vivo a capogiro e mi battevo a tutte le parti, non riuscivo manco a stare in piedi. Lo so. Ma no, vabbè, lei già sta rimettendo piano piano, però deve tenere molto riposo il piede, capito? E quindi devo fare un po' la spola, dai. Con la borsa del ghiaccio sempre, bella fresca sopra, poi dare le medicine, però già si alza, dai. Piano piano già cammina, dalla stampelletta. Solo che Filippo ogni volta che va la stampelletta le va appresso, ma che deve fare il gaggi, e allora accompagno io, sono quelle sempre mezza in piedi. Ehi, vai Giulio, vai. Ma mia, speriamo le fosse chi piede. Non glielo posso che glielo lecca, perché vede questo piede fasciato, e dici, ma cos'è questa cosa, roba da mangiare? Anche a me, sai, se faceva così, ti staccava il piede. Perché se ne accorgono che non stai... Vabbè, no, niente, vai giù. Ok. Sì, beh, certo, lo so, sono fastidiosi molto queste cose, molto fastidiosi. Vabbè, è chiaro che doveva fare, soprattutto una donna, però quando metti la scarpa, la donna non è come l'uomo, io ce l'avrei il problema nel piede sinistro, così. Però l'ho risolto comprandomi le scarpe larghe, non molto a punta, e allo stesso tempo quando la scarpa è un po' stretta allora ho un numero più grande. E dunque ho risolto quel problema, se no prima non riuscivo a camminare da dolore perché si fregava e mi pressava l'osso, era una cosa, guarda, micidiale. Allora ho scogitato quel sistema lì. Sì, già, lo so, lo sai che... mio fratello aveva fatto la stessa operazione prima di te, no, come quella che hai fatto tu alla gamba. Adesso se l'ha fatta anche alla spalla, sempre con lo stesso medico e sempre lì a Cagliari. Le hanno fatto 3 punti, le hanno fatto, e infatti deve stare roba di 3 mesi con l'arto così immobilizzato, ma adesso almeno per quanto non ha più il dolore, prima aveva il dolore, non riusciva a dormire, non riusciva a stare in nessun modo, né di giorno né di notte già. E purtroppo sono problemi questi che aveva 3 tendini rotti, 3 tendini nella spalla rotti. Le hanno fatto 3 buchi, l'hanno fatto l'intervento, li hanno fatto e adesso è in fase di guarigione perché è stato operato già 15 giorni fa, 15-20 giorni fa. Vai già. Ma è caduto oppure così? Cosa hai detto? Non ho capito già. Ho detto è caduto. No, assolutamente, no. Lui, siccome lui ha fatto praticamente il verniciatore per tantissimi anni, no? Il suo mestiere era quello, anche se poi in questi ultimi anni lui era lì al parcheggio di Viale Italia, là, diciamo così. E con questo movimento che fa col braccio levitando eccetera, ha fatto sì che gli si sono prestati questi tendini della spalla, ma era sofferente roba di mesi e mesi, o già non riusciva più a stare in modo. Alla fine si è fatto visitare e ha aspettato quando il dottore, il professore, il ortopedico era disponibile, si è fatto operare prima la gamba, e la gamba è guarito e adesso cammina bene tutto. E anche prima al zoppo non poteva muoversi, e adesso ha il problema del braccio, però si sa, adesso sta facendo la trafila per la guarigione, no? E il medico gli ha detto che per questo si passano 3 mesi, e per stare bene veramente del tutto si passano 3 mesi, e così mi ha detto, così tutto il tempo. E qui deve fare fisioterapia adesso? Certo, deve fare anche la fisioterapia, certo, questo è ovvio, ma è normale, no? Gli hanno fatto 3 buchi, gli hanno fatto nella spalla, e gli hanno fatto questi interventi. Cose brutte sono già, purtroppo sono cose che succedono ai vivi. Avanti Claudio. Lo so, sono cose un po' particolari, soprattutto la spalla, mamma mia, ansia staccata e dolore allucinante c'erano pure dopo. Vabbè, no, questo è l'intervento che lo voleva fare già dall'anno scorso, invece poi all'inizio dell'anno, e invece poi tra Covid e balle varie, niente, l'estate è andata come è andata, e l'anno abbiamo fatto adesso. Adesso poi sicuramente a febbraio marzo farà anche l'altro, perché questo era in condizioni veramente pessime, tanto è vero, abbiamo messo un ferro. L'altro ancora è più, va meglio, quindi sicuramente glielo tolgono e via, glielo ricostruiscono, non so come funziona questa cosa, però deve fare anche l'altro, perché alla fine non potevo mettere nessuna scarpa, capito? Né leggera, né d'estate andava bene, sai, perché usano quelle cose aperte, lì, quelle scarpe aperte, le ciabatte aperte, sandaletti, eccetera, ma d'inverno non faceva, quindi l'ha dovuto fare, sennò è un casino. Va bene, vai già. Ehi, ma come si presenta questa problematica qua? Si allarga il dito, cosa succede? Si storta, non lo so, non ce l'ho presente. Esce l'osso fuori, esce proprio dall'alluce, esce tutto l'osso fuori, capito? Una cosa brutta da vedere, ma poi fastidiosa e dolorosa, perché quando vai a mettere una scarpa ti pressa lì ed è un dolore allucinante, capito? Mia moglie quando si metteva le scarpe usciva a fare la spesa eccetera, poi alla fine non stava più uscendo, rientrava come con la pianta del piede di sangue, capito? Tutto tipo, una cosa brutta. Adesso è praticamente piatto, gliel'hanno tolto, gliel'hanno messo un ferro, che sicuramente dovranno togliere. Adesso il 16 c'è la visita, lo accompagnerà al policlinico, c'è la visita e vedo un po' com'è la situazione. Poi ti ripeto, per fare anche l'altro, però non era in queste condizioni, perché questo l'ha trascurato, capito già, mentre l'altro invece l'ho detto non aspettare che diventi come quello lì, fatelo prima e lui si è a posto. Sì, ma è così, infatti è così, è vero, purtroppo sono cose, io mi ricordo che quel periodo scorso, vabbè, un annetto fa l'avevo fatto anche con la ragazza che è la fidanzata di quello che ha il negozio degli acquari accanto alla mia bottega, o qua, ce l'ha fatta questa ragazza, Angela, e adesso sta benissimo, non c'è problema. Questa ragazza aveva quello stesso problema al piede, e nel primo periodo chiaramente ha un po' sofferto, ovviamente, perché non sono certamente le paste di crema quelle che uno si mangia e gode. Queste qui sono operazioni purtroppo un pochino pesantucce, però sai, bisogna farle perché giustamente se no soffri tutta la vita, ecco quale problema. E ho visto che quella ragazza tranquillamente adesso va prima, meglio, facendo anche chiesto, beh, Angela tieni, tutto a posto, non investire giù, tutto a posto per ragazzi, no, perché prima stavo soffrendo in una maniera impressionante, sì, già lo credo, già ti capisco qua. Sì, ma anche lì era una cosa che non poteva più andare, dai, assolutamente. E quindi si è decisa, anche se aveva un po' di paura, è stata un po' male, però già va bene. Avanti già. Ma già ne ero telefono. Sì, sicuramente. Certo qua, la paura c'è sempre, perché quando si va in mano agli ottoni la paura c'è sempre. Che sono un uomo, la paura devo dire che ho spesso quando ho qualcosa, che mancherebbe altro, voglio vedere, è inutile che uno possa dire, ah, vado per cosa, non si muore anch'io, ma chi l'ha detto che non si vede niente? Tu sei solo il gruppone quando io parlo così, perché la paura c'è da tutti gli esseri umani, anche le persone più coraggiose del mondo. Quando si va in mano ad un medico hai sempre paura, c'è sempre la paura. Naturalmente ci sono paure e paura. Se hai paura del raffreddore è chiaro che non si può essere la paura se magari si ha la bronchite, questo no. Però la paura ce l'hanno sempre, tutti quanti. Quelli che dicono io sono degli sbrucconi qua. Si conferma, la paura c'è sempre, un'operazione. Gianni? Mi stavo guardando l'operazione della luce in vano, ora ho visto come la fanno, un'intaccatura L sull'osso di modo che non possano addrizzare quindi verso l'interno si gira l'anno. Certo, li si accavalla l'anno, cioè, capito? Alla fine ma è un capo di molto. Eh sì, è un'operazione, l'osso praticamente ti intaccano l'osso a ebbe, lo fanno, no? Fanno l'intaccatura a ebbe, di modo che possano piegarlo e poi li filano in ferro. Ho visto come lo fanno, io quando sono incuriosito di qualche cosa vado per le guardie, le operazioni, intanto non mi fanno impressione, no? Io mi sono guardato che cosa dovrò fare a me, quello un po', anche quando ho visto la mola tagliando l'osso, un po' mi ha fatto impressione. La tua è sicuramente un po' più complicata, No, questa già ci siamo documentati anche noi prima di farla. Infatti lei è un po' entrata in ansia, ha detto, non ti preoccupare, va qui, va là, via. Allora rimane di così, finita che non puoi camminare, vabbè. Dai ragazzi, ci sono le 8:15, io mi allontano un quarto d'ora, poi rientro se ci siete, ok? Che porto a Filippo a fare la pipì. A te il cambio, Giulio. Ok, infatti te lo volevo avvisare io, ho appena guardato la sveglia, forse Claudio si è dimenticato di portare il cane, infatti ti volevo avvisare, invece già hai fatto prima tu. Bene, così è già, lo so. La fidanzata di Davide, o Gianni, stavo dicendo, se l'ha fatta, sarà un annetto fa, questo intervento a piede. E adesso è tranquilla, prima sì, per un po' di tempo ha sofferto, è ovvio, perché fin quando non guarisce come si deve, soffri un pochino. Però adesso so che cammina benissimo, infatti avevo anche chiesto. Angela, come va il piede? Va benissimo, signor Giù. Finalmente adesso so camminare come si deve, che prima non potevo camminare in nessun modo con le scarpe che mi mettevo, capito Gianni? E poi una donna è una ragazza giovane, ci vogliono mettere magari in scarpe col casco alto, tutte queste cose qua non possono farlo, le ragazze si sa e mettono le scarpe anche se non sono molto salutari come scarpe, queste col casco alto, però ogni tanto le piace metterle, dai. Tacco da 13 eccetera ce ne metto, magari non sarà il caso della ragazza di Davide, però ci sono tante ragazze che lo fanno e con questo problema qua, pur essendo giovane di tutto questo problema, pensavo che venisse già una certa età. No, viene anche da giovane, da ragazzi, a voglia, da ragazzi anche da, io ce l'ho una vita, questo problema. Infatti io quando vado a comprare il paio di scarpe mi misuro sempre da sinistra, perché io ce l'ho nel piede sinistro. Adesso io anche da poco sono andato a Globo, ho fatto un paio di polacchette e ho visto, insieme a mia figlia, faccio il numero 41, dammi, io ho 40, sia ben chiaro, io ho 40 di numero. Ho provato il numero 41, mi va benissimo, solo che un pochino lunghezza. Voglio provare anche il 40, dello stesso tipo di scarpa, però il 40. Ho provato e ho visto, infatti ce l'ho ai piedi in questo momento, e devo dire che siccome sono largo, no? Perché non compro io scarpe troppo appuntite, capito, con la punta troppo ampia, no? Io compro sempre col frontale largo, in modo che non mi dia fastidio, perché in realtà io il piede è un po' largo e se la scarpa è stretta mi frega su quell'osso e mi fa vedere le pelle, e allora quando è così mi compro la scarpa con un numero più grande e sto bene lo stesso senza nessun problema, capito Gianni come faccio? Anche io lo faccio, non c'è un problema di quel genere, però mi piace avere le scarpe un po' più larghe, che mi stiano comode, non mi piace che si volte che stanno strette, poi ti danno problemi ai piedi, eccetera, no? O una misura più grande non va benissimo, io le porto bene, specie le scarpe da tennis, le prendo sempre una misura più grande, perché ci metto anche le solette, quelle sono fatte con silicone, che sono morbide, con le sole, perché tu lo sai benissimo che col problema che ho al piede non è che posso, ci metto quelle ortopediche, ci metto però a volte anche quelle cose al silicone che sono morbide, e niente, dai. Adesso già sto un po' meglio, un po' si sta cicatrizzando, però bisogna che stia attento, perché se si spacca di nuovo è un casino. Adesso c'è la crosta sopra, speriamo che c'è la volta buona. Beh certo, da noi adesso ormai se c'è la crosta già guarito, già sta guarendo, e allora quello trattano bene, così sarà ancora più perfetto. Certo, ma è così, in effetti, no? Io la verità, adesso nel piede ho quel problema lì, però ripeto, non ho mai avuto nessun problema, anche da giovane, cioè, da ragazzo, addirittura quando gareggiavo già, avevo già quel problema lì, e tu lo sai, se fai un corridore a piedi, caspita, i piedi sono fondamentali, cioè, se li hai sani al 100%, come fai? E in quel periodo ho avuto anche l'unghia incarnata io nel piede. Sai cosa facevo con l'unghia incarnata? Le mettevo le scarpe addirittura due numeri più lunghe, però imbottivo la punta della scarpa, le imbottivo a cotone, e sono stato roba di un anno con l'unghia incarnata, perché non potevo camminare con la scarpa numero 40, assolutamente non potevo camminare. E allora mi mettevo le scarpe più lunghe, le scarpe da corsa, le scarpe che usavo per gareggiare, più lunghe. Anche l'allenamento, io tutte le sere quando andavo mi preparavo il piede alla mia maniera, mettevo del cotone nella punta in modo che non mi stringesse la scarpa sull'unghia, e non perché mi avevano detto se devi togliere l'unghia, se no non me ne tolgo l'unghia, non me lo sono mai fatto pelare. L'unghia mi cresceva nell'angolo, no? Si incarna lì, e io con un breve colbicine prima le bruciavo, le disinfettavo bene e mi tagliavo l'unghia, soffrivo un pochino quando tagliamo l'unghia, perché dovevo aprire la ferita, dovevo aprire e tagliavo l'unghia, perché l'unghia cresceva dentro, cresceva, no? Beh, il vero che mi sono guarito da solo, l'unghia incarnata, ho già. E non ho mai fatto l'intervento a lunga. Lo so, ma è un bel sofferente. Io ho questa amica che si è fatta operare, che gli hanno tirato l'unghia, gli hanno fatto vedere le stelle. Perché mi sa che ti fanno l'anestesia locale, se non attacca bene l'anestesia, senti lo stesso dolore. Ha detto che ha visto le stelle quando gliel'hanno tirato. Già lo credo, caspita, già lo credo che si viene a stelle. Tanto che si vive e come. E ti fa di colori anche di vita. Beh, è normale, questo sì. Sì, va bene, sì, si addormentano, magari si addormentano tutta la gamba, quello che vuoi, però dopo che si sveglia lo senti il dolore, come lo senti, lo senti, capita. Poco tu notami, se tagli le unghie dei piedi o delle mani, quando tu li tagli, se tu li tagli leggermente un tantino più di quel tanto, a un certo momento poi incomincia anche a farti male, visto che hai tagliato troppo. Per cui l'unghia, guarda, sembra un lino, una stupidaggine, però è una cosa molto importante anche, devi stare anche molto attento. È così già. No, io ho fatto così e non me ne sono fatto l'intervento, mi sono guarito da solo praticamente. Io invece c'ho un dito nel piede che praticamente si forma il callo sotto l'unghia e diventano tutt'uno, unghia e callo, capito? E ti devi tagliare, ma devi stare attento come stai, perché c'è tutta l'infezione. Devi tagliare callo e unghia insieme, capito? È una cosa pazzesca, non mi era mai successa una cosa del genere, ancora c'è questo piede di abitico, grazie per i sostituti di loro. Lo so, purtroppo sì, già, quando una persona ha questo problema, diciamo che le ferite tardano un po' di più a guarire, quello è vero. Purtroppo è così, ma cosa ci vuoi fare? Cosa ci vuoi fare già? Siamo sulla terra e ci dobbiamo aspettare di tutto, ci dobbiamo aspettare nella vita, per cui vabbè, interessante sempre cercare di risolvere, ma la situazione è quella. Io, ad esempio, il problema mio è un problema veramente serio già. E grazie a Dio sembra che i medici sono stati bravi e me l'hanno eliminato, però posso essere sempre a rischio. Infatti è per quello che sto facendo la terapia sempre. Adesso la devo iniziare di nuovo a marzo, la devo fare. Infatti devo andare a gennaio per prendere l'appuntamento, per dare la terapia per marzo. Allo stesso tempo faccio la cistoscopia, faccio l'attacco, tutte queste cose qua, faccio le azioni musicali, tutte queste cose qua. E il problema c'era, grazie a Dio sono riuscito a farmi curare, sembra che sia sparito tutto, anche con l'attacco non si è evidenziato niente.